Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, il consueto punto della giornata sui principali fatti economico-finanziari. Come potete immaginare, è ancora la Libia a concentrare gran parte delle attenzioni mondiali, naturalmente anche da parte nostra. Si guarda con grande apprensione all'evoluzione della crisi libica, soprattutto perché, come sapete, insomma, c'è un inevitabile problema di approvvigionamento di risorse energetiche, già ieri l'interruzione appunto delle forniture da parte di Eni. Ma oggi si è riunito il comitato di emergenza del gas con il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che ha voluto rasserenare notevolmente appunto gli animi. Vi faremo un punto della situazione da questo punto di vista. Anche il mercato ha continuato a guardare a questa vicenda e il petrolio comincia a risentire in maniera molto forte della crisi libica. Oggi abbiamo avuto un nuovo record dal settembre del 2008, sia per quello che riguarda il Brent, il greggio di riferimento europeo, sia per quello che riguarda il WTI, il greggio di riferimento americano, che aveva corso un po' meno nei giorni scorsi, ma adesso ha ripreso anche a correre in maniera piuttosto intensa appunto il greggio statunitense, toccando anche i 98 dollari al barile. Poi vi rifaremo un punto della situazione. Di quali altri argomenti parleremo quest'oggi? Di crescita economica, delle dichiarazioni di oggi del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, anche con una non ci sono state solo dichiarazioni di natura economica, anche una schermaglietta sulle qualità estetiche della Presidente di Confindustria, che vi riproporremo appunto più tardi. E poi ci occuperemo oggi anche della affittopoli romana, della quale riportano alcuni dettagli oggi alcuni giornali, lo avevano fatto anche alcuni quotidiani nei giorni scorsi, perché non solo dal Pio Albergo Trivulzio si parla di affitti di favore a molti VIP milanesi, ma a quanto pare appunto anche l'Enasarco negli anni passati avrebbe avuto questa pessima abitudine, dalla quale prende le distanze però il nuovo presidente della Fondazione Enasarco, che in realtà vorrebbe focalizzare un po' di più l'attenzione sul grandissimo piano di dismissione di immobili che l'ente sta facendo partire. Mette in vendita qualcosa come 18 immobili a prezzi di mercato, naturalmente lo farà, che non sono esattamente quelli invece che pagano tipo a Roma Luciano Gaucci e Girolamo Sirchia, il ministro Elio Vito. Insomma, poi vi racconteremo anche questa storia, sentiremo soprattutto l'intervista alle 18:15 del presidente della Fondazione Enasarco, Brunetto Boco. Il mercato oggi è piuttosto incerto, ondivago, Milano è negativa, oggi era andata molto meglio. Le borse europee sono invece tutte quante negative, stamattina erano sì con il segno meno, ma in maniera meno consistente. È particolarmente pesante la seduta, non particolarmente pesante, è negativa la seduta sul mercato americano, con una certa pesantezza dal settore tecnologico, perché c'è stato questo profit warning di Hewlett Packard che sta perdendo oltre 10 punti percentuali a Wall Street. Ha ripreso a correre anche l'euro. Sul dollaro pare che insomma qualche membro della Banca Centrale Europea cominci a mettere un po' di pressione ai vertici della BCE per decidere su un aumento dei tassi. D'altronde l'inflazione ha ripreso a fare capolino, sta risuperando in alcune economie dell'Eurozona questa soglia di controllo del 2%, ma d'altronde se il petrolio ha ripreso a correre sicuramente qualche ripercussione prima o poi sui prezzi la vedremo inevitabilmente. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi se vorrete commentare con noi i fatti economici della giornata. Adesso le notizie in breve. Infatti uno dei primi messaggi che vediamo arrivare da parte di alcuni ascoltatori è proprio questa prospettiva di aumento dei tassi di interesse. Poi vi diremo anche chi ha dato questa indicazione, un membro del direttivo della BCE, che ha detto che insomma un aumento sarà inevitabile, ma sarà sì prima o poi, non ha certo dato una collocazione temporale a questo intervento, ma insomma che dica che prima o poi si faccia, non è che ci debba poi spaventare più di tanto. Detto questo andiamo alle altre notizie. Allora, sono verosimilmente più di 1000 le persone innocenti innocenti morte in Libia in questi giorni, lo ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini, il quale ha aggiunto che c'è un limite nella politica italiana di continuità rispetto a Tripoli ed ora va alzata la voce. Secondo il ministro, che ha definito il discorso di ieri del colonnello Gheddafi un messaggio che atterrisce, di fronte all'incognita del dopo regime ci si aspetta un'ondata anomala di almeno 200-300.000 immigrati. Le ripercussioni della crisi libica sui prezzi delle materie prime, ve ne stiamo riferendo da diversi giorni. Allora, l'oro, in realtà un po' più tranquillo, oggi è ridisceso sotto i 1.400 dollari l'oncia, quotava oggi 1.398,90. Più intensi invece gli acquisti sui futures del petrolio. A New York oggi il WTI, il greggio di riferimento americano, aperto a 96,26 dollari al barile, ha fatto anche una puntata intorno ai 98 poco fa, mentre per quello che riguarda il Brent, il greggio del Mare del Nord, il greggio di riferimento europeo, oggi ha toccato i 110 dollari al barile per la prima volta dal settembre 2008. Come si stanno comportando in questo frangente le compagnie petrolifere? Total Fina ha avviato la sospensione di parte della produzione, la compagnia francese, la compagnia tedesca Wintershall ha bloccato la sua produzione di petrolio, mentre per quello che riguarda le misure francesi, porti e terminal sono stati chiusi. Anticipiamo qualche dichiarazione, poi vi riferiremo più dettagliatamente del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, oggi a margine del comitato d'emergenza gas. Romani ha rassicurato, non c'è problema, in Italia c'è molta capacità. Ha detto, abbiamo simulato tanti scenari negativi e in nessuno di questi c'è pericolo per la distribuzione di gas in Italia. Non verranno intaccate le riserve strategiche di gas. E invece stanno cominciando a guardare con molta apprensione a questa situazione, soprattutto sui prezzi del petrolio, le compagnie petrolifere. Allora, le prospettive delle compagnie europee non sono affatto positive dopo le proteste scoppiate in Libia, in Nord Africa e in Medio Oriente, una grande area che vale il 17% del trasporto aereo complessivo. Nelle previsioni sul 2011 abbiamo ipotizzato ad inizio anno utili totali di 9 miliardi di dollari, di cui 4 riconducibili all'Asia, 3 agli Stati Uniti e intorno ai 100 milioni di dollari quale fetta dei vettori europei. Tutte queste dichiarazioni sono di Giovanni Bisignani, direttore generale della IATA, l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. E Bisignani ha anche detto che nel 2010, questa almeno una buona notizia, non riguarda nel prezzo del petrolio nella crisi in Libia, c'è stato il più basso tasso di incidenti nella storia. Andiamo all'economia internazionale, anzi proseguiamo con l'economia internazionale, vediamo un po' quali notizie oggi arrivano dagli Stati Uniti. Le banche americane hanno chiuso il quarto trimestre con un utile netto complessivo di 21,7 miliardi di dollari. Lo ha fatto sapere la Federal Deposit Insurance Corp, nell'agenzia di assicurazione sui depositi, che ha sottolineato anche che l'utile del 2010 è cresciuto a 87,5 miliardi di dollari ai massimi dal 2007, un po' come se il settore avesse completamente cancellato la crisi degli ultimi 4 anni. Il numero delle banche in difficoltà è però aumentato a 884 da 860 del trimestre precedente. Ci sta appassionando molto, probabilmente poi nelle prossime settimane ci appassionerà sempre di più. Chi sarà il prossimo numero uno della Banca Centrale Europea? Come sapete si fa un gran parlare della candidatura del nostro Mario Draghi, ma oggi qualche perplessità su questa figura alla guida della BCE è stata espressa dalla Germania. Perché? Adesso ve lo spiego. Il passato di Mario Draghi alla Goldman Sachs e quindi alla guida di una grande banca di investimento rappresenta un problema nella corsa alla successione di Trichet al timone della BCE. Lo ha scritto oggi il quotidiano tedesco Handelsblatt, che ha citato fonti francesi, secondo quanto riporta Bloomberg, quindi in realtà poi un mix di fonti abbastanza curioso. Draghi è stato al centro del sistema finanziario americano, i cui eccessi, dice il quotidiano tedesco, sono andati oltre l'immaginabile e di conseguenza questo appunto provocherebbe qualche perplessità intorno alla guida della BCE. E ancora, la candidatura di Mario Draghi a presidente della BCE non supera l'esame di Berlino perché è italiano, lo scrive il Wall Street Journal, spiegando che la cancelliera tedesca Angela Merkel, già sotto pressione in Germania per aver acconsentito al salvataggio di un paese sull'orlo della bancarotta come la Grecia, non può permettersi adesso di scatenare la furia popolare mettendo la gestione dell'euro nelle mani di una persona che viene da un paese mediterraneo indebitato. Completamente contraria invece la posizione di un'altra organizzazione, quella è la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e il suo presidente Thomas Miro avrebbe espresso appunto un sostegno invece molto forte alla candidatura di Mario Draghi, ha detto che è un candidato molto forte appunto per la Banca Centrale Europea. Io ricordo anche che nei giorni scorsi un sostegno alla candidatura di Draghi era arrivato sia dal Financial Times che dall'Economist. E una ultima curiosità, sempre relativamente a Draghi e alla sua candidatura alla guida della BCE, le dichiarazioni di Thomas Miro, appunto numero uno della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, trovano eco anche sulla lavagna dei bookmaker d'oltremanica. La sigla irlandese Paddy Power lo dà come principale favorito per la carica a 1,44. Primo inseguitore, il governatore della banca di Finlandia. Andiamo ai temi italiani invece. Allora, oggi c'è stata un'asta di titoli di Stato che è andata in maniera decisamente buona e soddisfacente. Il Tesoro ha collocato sul mercato bot semestrali per 9 miliardi di euro che hanno avuto un rendimento dell'1,30%, in calo dello 0,11% rispetto all'asta precedente. L'asta ha visto una domanda pari a una volta e mezzo l'importo offerto, quindi pari quasi a 14 miliardi. C'è stata poi una richiesta anche altrettanto significativa per i CTZ con scadenza dicembre 2012. In asta sono andati i titoli per 2,5 miliardi. La domanda è ammontata a 4,2 miliardi. L'Istat ha confermato che a gennaio 2011 l'inflazione è balzata su base annua al 2,1% dall'1,9 di dicembre dello scorso anno. Si tratta del dato più alto dal dicembre del 2008. L'Istat ha quindi confermato le stime provvisorie su base mensile, invece i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4%. E neanche a dirlo quali sono le voci che sono corse di più. La benzina, i prezzi della benzina, dei carburanti sono cresciuti dell'11,3%, quelli del gasolio del 15,7%. Queste erano le notizie in breve, anzi ve ne voglio leggere anche un'altra, si riferisce sempre al tema del petrolio, della corsa dei prezzi della benzina, vedremo anche degli aumenti in bolletta, e chiaramente questa è una delle domande che in questi giorni stanno facendo in maniera insistente al nuovo presidente dell'autorità garante per l'energia, Guido Bortoni, e oggi in una nota l'autorità dell'energia ha fatto delle precisazioni rispetto a questo, rispetto ai possibili effetti delle interruzioni delle forniture di gas libico. Non vi sarà alcun impatto immediato sulle bollette, ha detto Bortoni, quindi non ha detto che non ci sarà alcun impatto, ha detto che non ci sarà alcun impatto immediato. Infatti, prosegue la nota dell'autorità, per il prossimo aggiornamento dei prezzi previsto per fine marzo, il meccanismo utilizzato dall'autorità esclude eventuali aumenti dei prezzi del gas legati agli eventi di questi giorni. Il primo approfondimento di oggi. Allora, il primo approfondimento di oggi è un tema che per chi mi sta ascoltando da questa mattina avete sentito, abbiamo toccato anche parzialmente a Salvadanaio, il tema del decreto mille proroghe. Allora, ieri sera il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso le sue riserve sulla legge di conversione del decreto mille proroghe perché, ha detto, include troppe misure eterogenee, elude il vaglio preventivo di legittimità da parte del Capo dello Stato e infligge, ha detto, un nuovo vulnus alle prerogative del Parlamento. Di fronte a queste osservazioni del Capo dello Stato, il Governo cosa ha fatto? Oggi ha autorizzato la questione di fiducia alla Camera sul decreto, nel caso però in cui si decidesse di presentare un maxi emendamento del Governo in cui confluirebbero appunto tutte le correzioni da fare, quindi tutti i punti corretti su cui si sono poi appuntati i rilievi del Quirinale. Cosa ha detto Berlusconi rispetto a questo? Quello che il Presidente del Consiglio e il Governo avevano concepito come un focoso destriero puro sangue, quando esce dal Parlamento è, se va bene, un ippopotamo, questo appunto Berlusconi, a proposito degli innumerevoli passaggi parlamentari cui sono sottoposti i progetti di legge del Governo, come per esempio proprio il milleproroghe. Quello che però ci interessa capire è quali saranno i punti che verranno estrapolati dal provvedimento per confluire eventualmente nel maxi emendamento. Il ministro dell'Economia Tremonti è intervenuto in aula oggi alla Camera proprio per indicare i punti su cui il governo intende intervenire dopo i rilievi di Napolitano. Sentiamo il ministro dell'Economia. Signora Presidente, onorevoli colleghi, per comunicare la disponibilità del governo a modifiche del testo del decreto cosiddetto milleproroghe, come qui in discussione dal Senato, a titolo indicativo su questi punti. Questo a seguito di consultazioni avvenute nel corso di questi giorni. La normativa sui precari scuola, assunzione per provincia. La normativa contenuta nel testo sul personale Consob, il salvamento acquatico, gli immobili acquisiti a seguito di esproprio per Roma, il numero degli assessori e consiglieri del Comune di Roma, dovrebbe essere ripristinato il testo del decreto di luglio, la norma sull'incrocio tra TV e giornali, la proroga sulla presidenza dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e sui servizi, una modifica della normativa sulle demolizioni di Napoli, la proroga delle concessioni relative ai contratti nella zona di Etna. Su questi punti credo che possa essere aperta una discussione. Grazie. E insomma, tanti punti che per chi segue Sebastiano Barisoni tutti i giorni, lo sapete, ha fatto una battaglia proprio per così enfatizzare l'attenzione sui punti un po' più controversi e curiosi di questo provvedimento. E allora saranno probabilmente modificati alcuni di questi provvedimenti molto discussi e criticati, in particolare ve ne cito alcuni: la norma sui precari della scuola che introduce delle limitazioni agli spostamenti territoriali dei docenti, l'aumento del numero degli assessori nelle città con oltre 1 milione di abitanti, che da 12 veniva rialzato a 15, misura che riguardava in particolare la situazione di Roma, che oggi ha provocato un bel intenso botta e risposta fra il ministro Tremonti e il sindaco di Roma Alemanno. E poi la sospensione fino al 31 dicembre di quest'anno dei termini per le demolizioni di costruzioni abusive in campagna, questo passaggio è stato citato anche da Tremonti prima, anche se realizzate in aree vincolate da norme di tutela paesaggistica. A restare invece nel decreto la nuova proroga di 6 mesi del pagamento delle multe sulle quote latte, uno stanziamento di 5 milioni di euro sottratti anche ai fondi per l'assistenza ai malati di cancro. Rimangono nel decreto le misure di sanatoria di multe per affissioni di manifesti e striscioni politici abusivi e insomma ci sarà ancora probabilmente da discutere intorno a questo maxi pacchetto. E adesso andiamo rapidamente ad un altro velocissimo approfondimento, quale papere ovviamente anche quelle non ce le facciamo mai mancare, sui temi della politica economica nel nostro paese, oggi dichiarazioni sia di Berlusconi che del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Allora, Berlusconi, cosa ha detto oggi? Possiamo dire che ci sono delle solide basi per la ripresa delle imprese e la crescita economica. Dove ha fatto queste dichiarazioni oggi Berlusconi? Agli Stati Generali di Roma Capitale. Il Premier ha sottolineato come l'Italia sia uscita dalla crisi perché, ha detto, il nostro governo è stato il primo ad intervenire. E ora sentiamo di avere le basi sufficientemente solide e sicure per poter dare agli imprenditori, ai lavoratori, la possibilità di costruire la ripresa e di sostenere la crescita dell'economia. Lo faremo in accordo con le forze sociali, con cui stiamo tra l'altro molto bene collaborando per la riforma di quel sistema fiscale che data agli anni 70, che è diventato impraticabile e che dà sempre più lavoro a fiscalisti, all'Agenzia delle Entrate, che dobbiamo semplificare, e nel nostro auspicio cioè quello di arrivare a far approvare dal Parlamento e ad avere l'approvazione, come dicevo prima, della Corte Costituzionale, di un nuovo codice di norme fiscali che si sostituisca alla selva di norme che esistono attualmente. Ecco la nostra presidentessa, la mia presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, quella che noi a Milano, ha aggiunto, chiamiamo Bella Tosa. Anche questa occasione Berlusconi di fare un commento sulle donne non se l'è fatto mancare, e allora ve lo riproponiamo. Eccola qua la nostra presidentessa, la mia presidentessa di Confindustria, Emma Marcegaglia, a cui vi prego di tributare un applauso di benvenuto, è quella che noi a Milano chiamiamo una Bella Tosa. Vogliamo subito sentirla la replica della Presidente di Confindustria al microfono di Alessandra Schepisi? Mi permetto una riva, allora Bella Tosa va bene purché non sia una scusa per non fare quello che noi chiediamo sulle riforme economiche che sono importanti. E cosa vuole Confindustria? Un piano per la crescita, lavorare uniti, sentiamo ancora questo passaggio di Emma Marcegaglia. Oggi si apre una nuova fase. Una fase in cui è fondamentale avere tutti molto a cuore il tema della crescita del nostro paese. È difficile crescere in un paese che ha una cornice istituzionale così complessa, ma credo che lo sforzo di tutti noi sia proprio quello di lavorare perché questa situazione di bassa crescita che ormai ci portiamo avanti da 15 anni possa diventare una realtà. Dobbiamo crescere di più e questo è il momento in cui si possono fare una serie di cose difficili ma fondamentali per il nostro paese. Il Presidente del Consiglio ha parlato di riforma fiscale. La riforma fiscale è l'elemento di politica economica che più può dare crescita al Paese. La nostra posizione su questo è molto chiara. Bisogna abbassare le tasse su chi sostiene questo Paese, cioè i lavoratori e le imprese, magari agendo su altre leve, agendo sulla leva delle rendite finanziarie, agendo sull'evasione fiscale, ma non vi dubbio che dobbiamo darci un obiettivo chiaro e evidente di abbassare la tassazione su chi appunto, sui lavoratori e sulle imprese che sono coloro che sostengono l'economia. Allora le cose da fare sono chiare. È venuto il momento veramente di farle insieme, non dividendoci, ma ognuno prendendosi la propria responsabilità di portare avanti questo piano di crescita. E siamo già arrivati alla chiusura del primo blocco di Focus Economia. Ci fermiamo per una brevissima pausa e naturalmente ritorniamo insieme tra pochissimo per raccontarvi quello che è successo oggi in borsa. Tra poco. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Quanta confusione oggi con molti ascoltatori, intanto affezionatissimi, chi ci fa i complimenti perché c'è la conduttrice donna oggi a Focus Economia, chi invece si lamenta perché manca Sebastiano Barisoni, che io ribadisco tornerà nei prossimi giorni, state tranquilli, ma anche per noi non è che possiamo sempre stare incollati a questa sedia, qualche volta abbiamo bisogno di permessi, di un giorno di ferie e quant'altro, per cui qualche cambiamento ogni tanto lo dovete subire. Detto questo, c'era anche un altro ascoltatore che invece mi ha scritto alla mail privata, pensate un po', quella dell'aziendale, sollevando il fatto che avessimo dato una quotazione dell'oro sbagliata, non abbiamo dato l'apertura, adesso è oltre $1,400 al barile, ma sapete bene appunto su che livelli di volatilità stanno viaggiando le materie prime in questi giorni, d'altronde anche il petrolio passa da $94 a $98 nel giro di 5 minuti, per cui non era una quotazione sbagliata quella che ho dato, si riferiva semplicemente, non era completamente aggiornata in questo momento. Detto questo, invece, l'aggiornamento è piuttosto preciso per quello che riguarda la borsa, che oggi è stata lo stesso piuttosto volatile. La seduta si è aperta male per l'Europa e è andata peggio, strada facendo, malino anche Wall Street, maluccio Milano, ma la giornata di borsa ve la cominciamo a raccontare adesso. Allora, tra l'altro, nel collegamento dei mercati che ho fatto alle 16.30 avevo notato un Nasdaq, un indice dei titoli tecnologici, che perdeva oltre 2,5 punti. Poi adesso rivedo l'altro Nasdaq, perché ce ne sono due di panieri sui titoli tecnologici, perdere lo 0,8%. Mi sono detta, ma che è successo? Che ho detto? Ho dato i numeri prima, mi sono sbagliata. No, effettivamente un indicatore perde tanto. Questo invece che diamo un po' più diffusamente, che diamo più spesso, il Composite, perde lo 0,9%, in linea con il Dow Jones, che perde invece lo 0,50%. Più seria la giornata giornata europea, meno 0,9 a Parigi, meno 1,69% Francoforte, quindi distanzia nettamente le altre piazze, Londra in ribasso di un punto. Milano invece, che ci ha fatto venire sudori freddi negli ultimi due giorni, oggi perde molto meno delle altre piazze, meno 0,29% sulle FTSE MIB. Che giornata anche questa, Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, intanto negli Stati Uniti oggi tutti preoccupati per i conti di Hewlett Packard, che sta perdendo più del 10% a Wall Street. Cominciamo un po' da questa notizia, va, cambiamo così anche tenore un po' in modo di raccontare la nostra giornata di borsa. Mi pare che questa notizia non abbia però avuto particolari ripercussioni sui titoli tecnologici europei, o mi sbaglio, Guido? Ma in realtà, diciamo, non ha avuto particolari ripercussioni, anche se comunque il DJ Stocks di settore ha perso comunque il 2%, però diciamo che una borsa dove i principali listini hanno perso un punto e mezzo, insomma, si è notato di meno. Anche a Milano, se guardiamo al titolo tecnologico più rappresentativo che c'è sul listino, che è Seti Microelectronics, ha ceduto l'1,95%. Vabbè, allora, no, intanto scusa, stavo ridendo perché ovviamente, essendo in diretta da questa mattina, ho detto che l'oro quotava $1,400 al barile. Credo che se mettessimo tutto quell'oro in un barile la quotazione sarebbe molto più importante. È ovvio che che dovevo parlare di oncia, mi scuso con gli ascoltatori che non me ne fanno passare una oggi, va bene, bene così. Guido, allora cominciamo un po' a verificare le prestazioni dei titoli di borsa. Oggi intanto contrattazioni regolari, a Milano non c'è stato nessun disguido tecnico. No, oggi contrattazioni regolari, dopo il pasticcio di ieri oggi è andato tutto bene. Esatto, l'hai definito proprio bene perché è stato un bel pasticcio che si è risolto solo alle 15.30. In una giornata come questa gli operatori ne hanno approfittato per riscoprire un po' titoli trascurati dei quali non si parla molto spesso. Cosa è successo ad Enel Green Power? Per esempio più 2,54%, miglior titolo della giornata. Ma allora, anche qui ci sono state alcune analisi che sono girate oggi per le sale operative, che andavano un po' a vedere cosa succedeva, visto che c'è stato questo stop dei flussi di gas dalla Libia, quelli che passano attraverso il gasdotto Green Stream. Le attese sono che i prezzi dell'energia elettrica siano destinati a salire, e siccome le società rinnovabili hanno un sistema di meccanismi legati al prezzo dell'energia elettrica, questo dovrebbe generare un impatto positivo anche per chi genera energie rinnovabili, ed è un po' su questo che oggi Enel Green Power è stato, diciamo, il titolo migliore dell'S&P MIB, con un rialzo del 2,54%. Insomma, un mercato che già guarda per alcune società molto dopo la crisi, no? Guarda già in prospettiva piuttosto avanzata. Invece Eni è continuata a viaggiare sulla notizia, Guido, e anche oggi ha perso qualcosa come quasi un punto percentuale. Sì, aveva provato in mattinata a invertire la rotta a Piazza Affari, era arrivata a guadagnare anche più di un punto percentuale, però diciamo che anche le notizie che sono ancora arrivate, anche nel pomeriggio, sempre più drammatiche dalla Libia, hanno innestato un nuovo ciclo di vendite, e non è bastato nemmeno il prezzo del petrolio, che almeno sul mercato europeo oggi è salito anche oltre i $110 al barile, a dare la spinta al titolo. Infatti è chiuso a meno 1,16. E intanto l'oro è a $1,400 l'oncia, lo dico, scandisco bene per evitare altri pasticci invece di parole. Allora, le banche, c'è stato lo stop al decreto mille proroghe, che contiene una misura, qualcuno l'ha chiamata, non so, salva patrimoni, salva bilance, e neanche sto a ripetere come funzionerebbe questo meccanismo, che permetterebbe appunto di avere delle solidità patrimoniali molto importanti. Però nonostante lo stop del presidente Napolitano, e nonostante Tremonti abbia detto appunto che il governo è disposto, ovviamente mettendo la fiducia, ad estrapolare i provvedimenti contestati ed inserirli con le modifiche in un maxi emendamento, il provvedimento sulle banche non mi pare che sia in discussione. No, il provvedimento sulle banche nessuno... Questo ovviamente per parlare anche delle ripercussioni sui titoli, naturalmente. Sì, Guido. Nessuno comunque lo giudica in discussione, nonostante lo stop che era arrivato sul mille proroghe. E infatti si vede dal fatto che il titolo bancario che oggi è andato meglio è il Banco Popolare, che ha chiuso in rialzo dell'1,52%, ed è proprio quello che andrebbe a beneficiare maggiormente delle misure inserite nel mille proroghe. Ma diciamo anche altri bancari comunque si sono comportati bene: Intesa San Paolo più 0,85%, Unicredit più 0,76%. Unicredit più 0,76%. Oggi peraltro sulle Sole 24 Ore si torna anche a discutere di questo pacchetto nell'azionario partenariato del 7,5% appunto dei soci libici. Chissà che non sia necessario appunto rivedere questa quota, è una quota non indifferente, per cui anche riallocarla, redistribuirla in qualche maniera non dovrebbe essere un'operazione facile, però insomma anche qui si guarda molto in avanti. Oggi è andata bene anche il Banco Popolare, non abbiamo citato, più 1,52%, Telecom più 0,7%, Generali più 0,7%. Per adesso ci prendiamo una parentesi da Generali perché approfondiremo le vicende del Leone di Trieste fra qualche minuto con il collega del Sole 24 Ore Riccardo Sabatini. Abbiamo Mediolanum più 0,38%, Fondiaria più 0,30%. Sì, Fondiaria, andiamo un po' a raccontare anche le vicende di questa compagnia assicurativa. Ci sono dati positivi relativamente a che cosa, Guido? Ma relativamente alla raccolta premi che è stata comunicata ieri a mercati chiusi, quindi ha impattato sulle quotazioni del titolo oggi. La raccolta premi per il 2010 si è attestata a 12,9 miliardi per il gruppo Fonsà, in crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente, e diciamo che è finalmente una buona notizia anche per la parte industriale di questa società, che ha fatto parlare in questi mesi più per gli aspetti legati alla vicenda dell'ingresso nella galassia di Gresti dei francesi di Groupama, per cui ancora si attende però un via libera della Consob. C'è un ascoltatore che chiede se sappiamo se bocciando il mille proroghe viene annullata anche la festa del 17 marzo. Non mi pare proprio che sia stata minimamente messa in discussione quella, ormai la festa appunto per il nostro paese è stata confermata. Quindi Demis da Padova, io la saluto, ma può prenotare tranquillamente le sue terme perché non credo che sia messa in discussione. Guido, ci prendiamo un minutino di pausa perché sentiamo i suggerimenti perché in viaggio, poi i titoli che hanno invece chiuso la giornata negativa li raccontiamo fra pochissimo. Ho ingaggiato intanto una competizione fra gli ascoltatori che appunto stanno facendo a gara a mandarmi le quotazioni del prezzo dell'oro. Bene, bene. Abbiamo creato una task force d'emergenza a Focus Economia. Detto questo, ritorniamo rapidamente con Guido Maurino a casi di borsa, andando a vedere invece chi c'è dall'altra parte della classifica. Oggi, dopo i migliori, andiamo ai peggiori. Pirelli, meno 2,88%. Aspettiamo i dati di Tenaris, mi pare, Guido. Oggi, meno 2,41% per il titolo. Sì, è così, aspettiamo. Oggi sono andati male un po' tutti i titoli del settore industriale, anche l'indice di riferimento europeo ha ceduto l'1,78%, a farne le spese a Milano è stata Pirelli, meno 2,88%, che è andata male come tutti i produttori di gomme, per una crescente preoccupazione degli analisti relativamente al prezzo della materia prima, la gomma naturale, che si teme sempre che non riesca a essere del tutto assorbito dall'incremento dei prezzi. Per quello che riguarda Tenaris si aspetta di conoscere i risultati, male anche Saipem che ha ceduto il 2,15%, Fiat Industrial almeno 1,91% e Finmeccanica meno 1,65%. Ecco, tutta la galassia Fiat ha avuto questi cali sempre riconducibili comunque complessivamente al comparto industriale che citavi? Non ha delle motivazioni. Qualcuno che nella spiegazione che un aumento del prezzo del petrolio potrebbe andare a incidere negativamente sulle vendite di automobili, però insomma mi sembra abbastanza tirata come cosa. Nulla a che fare anche con la divulgazione dei dati sui compensi a Sergio Marchionne, a Luca Cordero di Montezemolo, no? No, anche in questo caso. Adesso magari per far arrabbiare qualche ascoltatore li racconto anche questi dati. Quindi abbiamo terminato con i casi di borsa. Ecco, in realtà parlando dei migliori titoli avevo anche citato prima Telecom Italia, che ha segnato un più 0,7%. Sono stati i conti di Telecom Italia Media a dare questa spinta anche al gruppo? Sì, sono stati loro, intanto è vero che Telecom Italia Media ha chiuso in rialzo del 4,47%, la società ha ridotto un po' le perdite, soprattutto ha aumentato i ricavi del 13,7%, adesso la palla passa nelle mani di Telecom Italia, che domani dovrà presentare i suoi di conti e anche il nuovo piano industriale triennale. Anche lì il rimescolamento ai vertici in vista, mi pare, Guido, si parla anche di questo? Se ne discute, anche se anche oggi insomma hanno detto che è appena iniziata, come dire, la discussione per i vertici, per cui staremo a vedere in vista dell'assemblea. Grazie a Guido Maurino, collega di Radio Cori il Sole 24 Ore. Allora, in vista di un possibile riassetto dei vertici di Telecom Italia, c'è un gran discutere invece da qualche tempo a questa parte sulla governance del gruppo Generali, e oggi c'era l'atteso consiglio di amministrazione a Roma. Sentiamo un po' di approfondire anche questo argomento. E allora, qual è il problema che in questi giorni, da qualche settimana, sta riscaldando un po' gli anime e vertici del Leone di Trieste? Le prerogative del presidente Cesare Geronzi, in teoria già circoscritte dalle regole di governo del gruppo, prerogative che rischiano però di finire sul banco degli imputati. A risollevare di peso la questione è stata la scelta lunedì scorso dell'imprenditore Leonardo Del Vecchio, il patron della Luxottica, che detiene una quota dell'1,9% del gruppo di Trieste, che si è dimesso dal consiglio di amministrazione. Il passo indietro lo ha fatto alla luce di un'intervista di Geronzi alla Financial Times, in cui si ipotizzavano nuovi investimenti del gruppo nel settore bancario, un'ipotesi che per la verità non sarebbe mai stata discussa in consiglio di amministrazione e anche in contrasto con quanto recentemente illustrato nell'Investor Day della compagnia, l'incontro appunto proprio con gli investitori istituzionali. Cosa bolle in pentola? Cosa sta accadendo a Trieste? Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore. Riccardo, buonasera. Salve, buonasera. 5 minuti di tempo per raccontare le vicende, che sono sempre abbastanza appassionanti quando passano per Trieste. Intanto il consiglio di amministrazione sarebbe ancora in corso, non è emerso nulla, mi sembra. Sì, esatto, sono 6 ore di discussione che per un consiglio di amministrazione normalmente durano, normalmente 1 ora e mezza, 2 ore. I manager, si sa, sono persone molto occupate, ci tengono a utilizzare al meglio il loro tempo, quindi 6 ore è proprio un tempo smisurato per un consiglio di amministrazione, un segnale di quanto la discussione sia, come in effetti prevedono tutti, molto, molto intensa. Allora, la governance è il tema principale appunto che, come dicevo prima, sta scaldando un po' gli animi di alcuni soci. Non solo, già nelle settimane passate si era parlato di un altro problema che era stato sollevato da Diego Della Valle: la quota in RCS ha, come dire, ancora senso mantenerla o meno, insomma. Ma qual è il problema più importante? È davvero la prerogativa di Geronzi in questo momento per quello che riguarda Generali? Riccardo, ti chiedo, perché voglio dire, momento in cui viene nominata una persona del genere al vertice di una compagnia grande come questa, non è che lo si faccia così a vuoto. Geronzi lo si conosce anche. Sì, Geronzi che cosa conosce anche, come ha notato qualche osservatore. Geronzi, nella sua esperienza professionale, non è mai andato così d'accordo con i manager esecutivi. È sempre stato presidente, prima in Capitalia, e ricordiamo tutti i suoi dissidi con Arpe, che al tempo era amministratore delegato. È stato poi presidente di Mediobanca e ancora i giornalisti hanno registrato a più riprese, insomma, la distanza, la freddezza con Nagel e Pagliaro. Quindi è una persona, è ingombrante come persona per la storia che ha come banchiere, come figura di rilievo e di spicco di un establishment bancario da 40 anni, in sostanza, da quando è cominciata la sua avventura. Però, insomma, la questione della governance al Leone di Trieste preoccupa, come tu evidenzi molto bene stamattina sul Sole 24 Ore, tutti gli investitori, anche gli analisti finanziari. Perché c'è questa preoccupazione? Anche perché effettivamente, rispetto anche alla ripresa della borsa in termini generali, anche del settore assicurativo degli ultimi mesi, Generali non ha fatto bene nello stesso modo. No, perché gli investitori amano le situazioni chiare in cui si sa esattamente chi guida un'azienda e che cosa prevedibilmente accadrà. Ora, in Generali c'è questa ambiguità. Il gruppo ha discusso per mesi di perfezionare la sua corporate governance. Sono state discussioni molto laboriose per nominare il country manager del gruppo, per definire i ruoli di chi doveva ricoprire la carica di responsabile di rischio e quant'altro. Peccato che ci si è dimenticati di questa ambiguità di fondo. Vanno d'accordo per il Sinotto e Geronzi? Questo è un po' il problema che è esploso nelle ultime settimane. Nell'ambiguità di questa risposta, nella mancanza di chiarezza su questa risposta, il mercato esprime dubbi. Dubbi che sono stati accentuati da un'intervista che il presidente di Generali ha fatto al Financial Times la scorsa settimana, in cui propone di investire, che nel futuro del gruppo ci sono ulteriori investimenti, certo, nella banca. Qual è il dubbio del mercato? Che Geronzi prosegua un po' nella sua traiettoria di inseguire una sorta di assicurazione di sistema in cui le generali, in virtù dei grandi mezzi finanziari che possiedono, vanno lì a puntellare le situazioni di crisi del sistema Italia. Ma le generali sono una grande compagnia internazionale, sono in Italia hanno circa un terzo del loro fatturato, il resto lo fanno altrove. E quindi gli investitori sono preoccupatissimi dall'idea che le generali venga assorbita in un ruolo tutto italiano di difesa dei campioni nazionali, quando poi i campioni non ci sono più, oppure, come è il caso dei generali appunto, rischia di non esserlo più qualora fosse ricondotta a una identità soltanto italiana. Allora, Riccardo, io purtroppo devo salutarti, non abbiamo ancora il tempo di raccontare ulteriormente ai nostri ascoltatori le vicende del Leone di Trieste, lo ripeto, sono sempre molto appassionanti, sicuramente non finiremo di parlarne qua, l'idea è però che al momento ci possa essere uno stop rispetto a questo scontro, come diceva Laura Galvagni stamattina sul Sole 24 Ore, ancora probabilmente non avremo un affondo finale troppo presto, troppo grande una possibilità di questo tipo. Grazie a Riccardo Sabatini per essere stati con noi. Vi leggo una notizia rapidissima. I PM di Milano, Eugenio Fusco e Gaetano Ruta, hanno chiesto la condanna a 3 anni di reclusione per l'ex governatore di Banca d'Italia Antonio Fazio e 1 anno e 3 mesi all'ex amministratore delegato della Popolare di Lodi, Giampiero Fiorani, lo ricorderete, imputati al processo sul tentativo di scalata d'Antonveneta da parte dell'ex Banca Popolare Italiana. Ci fermiamo, il GR, noi torniamo subito dopo. Sono 18.08, ancora buonasera da Deborah Rosciani e benvenuti a Radio 24, l'ultima parte di Focus Economia per il resoconto della giornata economico-finanziaria. Adesso vi racconto un po' cosa è successo oggi a Roma, la riunione del Comitato per l'Emergenza sul gas, il Comitato Tecnico di Emergenza e Monitoraggio sul Sistema Gas, e poi naturalmente rifaremo anche in 12 secondi il punto sulla giornata di borsa, perché sono arretrate per il quarto giorno consecutivo le borse europee dopo che il leader libico Gheddafi ha ribadito che combatterà con violenza i dissidenti. C'è stata anche questa presa di posizione francese molto importante. Il presidente Sarkozy ha chiesto all'Unione Europea di adottare delle sanzioni contro la Libia, sospendendo drasticamente i rapporti economici e finanziari con Tripoli. Tutto questo non sta facendo altro che alimentare le quotazioni del petrolio: $98 al barile a New York e $110 a Londra il Brent, per la prima volta dal 2008, e poi la sospensione anche da parte di alcune compagnie della sospensione di parte della produzione. Adesso, allora, il primo approfondimento di questa seconda parte del nostro programma, andiamo proprio a Roma. Allora, sì, io pensavo ci fosse una sigla, Paolo, non l'abbiamo messa, pazienza, andiamo avanti anche senza sigletta d'appoggio. Dopo il discorso in TV di ieri del leader libico Gheddafi, che ha detto resisterò fino alla morte, c'è appunto ancora tensione in Libia, mentre gli stranieri fuggono e le forniture energetiche verso l'Europa vengono chiuse. Si è tenuto in mattinata al Ministero dello Sviluppo Economico questo meeting, questa riunione del Comitato Tecnico di Emergenze e Monitoraggio del Sistema Gas, con l'obiettivo di fare il punto sullo stato degli approvvigionamenti in seguito alla sospensione del gasdotto Green Stream. Allora, Bruxelles è pronta ad ingaggiare una prova di forza con Tripoli pur di spingere Gheddafi a mettere fine al bagno di sangue. È una questione di rapporti di forza, ha detto il portavoce dell'esecutivo comunitario, ma sentiamo anche cosa ha detto oggi il presidente Berlusconi, anche perché, come sapete, insomma, sono piuttosto delicati i rapporti con il nostro paese. Per tutta la notte siamo stati in contatto con i leader europei e americani per monitorare la situazione. Quello che è importante è che non ci siano violenze, ma dobbiamo anche essere attenti a quello che accadrà dopo, quando saranno cambiati questi regimi con cui noi trattiamo e che sono importanti per noi per la fornitura di energia. Sentiamo Berlusconi. Questa mattina abbiamo continuato a restare in contatto con gli altri leader europei e americani, perché c'è questa situazione in Libia e anche negli altri paesi che sta evolvendo, e non vorremmo che evolvesse in una direzione pericolosa con il fondamentalismo islamico che prevale negli aspetti futuri di queste società. Quindi credo che sia per noi fondamentale dire naturalmente no alle violenze, ma anche essere accorti su quello che succederà dopo che siano cambiati quei regimi con cui noi, come tutti gli altri paesi dell'Occidente abbiamo trattato, essendo i titolari del governo di quei paesi a cui noi guardiamo per mille motivi, ma anche perché sono per noi importanti fornitori di energia. L'intervento di Berlusconi è stato raccolto agli stati generali della città di Roma, mentre oggi sulla crisi libica ha parlato anche il ministro degli esteri Franco Frattini, intervenendo in aula alla Camera. L'impatto sarà duro per il settore infrastrutture. Vi sono imprese italiane impegnate nel paese interessate in accordi per 4 miliardi di euro. L'impatto sarà certamente più duro per il settore nazionale delle infrastrutture. Ci è stato detto ieri dal ministro Matteoli, vi sono imprese italiane interessate o già impegnate in azioni e in lavori che possono complessivamente raggiungere i 4 miliardi di euro. Si tratterà di una ricaduta negativa per le imprese italiane, vedremo come si evolverà la situazione, ma è un elemento su cui evidentemente dobbiamo riflettere. È stato piuttosto rassicurante l'intervento del ministro dello sviluppo economico Romani al termine proprio della pluricitata oggi riunione del Comitato di Emergenza e Monitoraggio sul gas. Le importazioni di gas mancanti dalla Libia, ha detto, sono state sostituite con un aumento dell'import dagli altri paesi e da un maggior ricorso agli stoccaggi. Abbiamo anche simulato tanti scenari negativi, in nessuno di questi c'è pericolo per la distribuzione di gas in Italia. Romani ha anche detto non verranno intaccate le riserve strategiche di gas, nel peggiore dei casi si possono utilizzare quelle aggiuntive, insomma non c'è problema, c'è molta capacità. Sentiamo il ministro Romani al microfono di Vincenzo Miglietta. Abbiamo simulato tanti scenari negativi, ma non c'è nessun caso, nessun pericolo per la distribuzione italiana di gas, quindi siamo in una situazione ottimale. Tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni di un network di distribuzione che consentisse, laddove dovessero sorgere problemi, di fare riferimento ad altri gasdotti, ci consente oggi di vivere solamente tranquilli. Mentre c'è il blocco di Green Stream libico, e al momento non c'è nessun tipo di problema da nessun'altra parte. La Libia rappresenta il 12% della fornitura di gas. In Italia il gas arriva dall'Algeria tramite il Transmed, arriva dal nord tramite il Transit Gas, arriva tramite Treviso, arriva tramite i degassificatori e gasificatori che sono lungo le coste italiane, quindi c'è una rete di distribuzione, gas russo eccetera, e quindi c'è una possibilità di utilizzo a pieno regime degli impianti che oggi non sono a pieno regime. Intendiamoci anche sulla definizione scorte, c'è la riserva strategica che è di 5,1 miliardi di metri cubi, che è la riserva del paese nei casi di vera emergenza, e non siamo in questo caso. Poi durante i periodi dell'anno più caldi c'è una riserva aggiuntiva che viene formata quando non viene utilizzato a pieno regime il gas di fornitura, che oggi consente di essere utilizzata. Quindi non intacchiamo nemmeno la riserva strategica. Per il momento l'approvvigionamento di petrolio e gas non ha problemi, abbiamo stoccaggi fino all'estate, rassicurante anche Marcegaglia, presidente di Confindustria. Il presidente dell'Enel, Piero Gnudi, ha detto: credo che nell'immediato non ci siano problemi sulle forniture energetiche per l'Italia dalla Libia, ha sottolineato però che questo evento debbe comportare delle riflessioni. Un'ultima dichiarazione che vi leggo è quella di Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera, intervistato da Sky TG24, ha detto: fino ad ora le aziende italiane non hanno avuto alcun problema di approvvigionamento di petrolio, stanno caricando tranquillamente le navi. A giudizio di De Vita, la crisi libica va letta in due direzioni, breve periodo e lungo periodo, lungo, medio, lungo periodo. Sul breve, ha detto, ci può essere qualche turbolenza, ma sul medio lungo grandi preoccupazioni non ci possono essere, perché abbiamo visto che chiunque governi le esportazioni non si fermano, perché questi paesi hanno bisogno dei nostri dollari. Ci fermiamo solamente per poche, poi andiamo ad Affittopoli a Roma. E allora, le notizie di questi giorni su Affittopoli, concentrate a Milano, hanno fatto arrabbiare molti di noi, naturalmente, perché guardano a queste vicende come delle vicende assolutamente inique. Insomma, nuclei familiari del tutto normali devono pagare degli affitti spropositati, e poi si scopre che invece ci sono queste circostanze di favore in maniera così nuda e cruda che stanno venendo alla luce adesso a Milano. Ma anche a Roma si sta cominciando a parlare di una possibile Affittopoli a proposito delle case Enasar, Marco, l'ente di previdenza degli agenti di commercio, dopo il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano, oggi anche Libero ha riferito di alcuni casi. Il vice ministro delle infrastrutture, Roberto Castelli, ha annunciato ieri di aver dato la disdetta del proprio alloggio di 96 metri quadri nel quartiere Monteverde, per cui paga 750 euro, ha voluto precisare spese comprese, è stato precisato spese comprese. Altri nomi, quelli di Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia, Pio Pompa, collaboratore del Sismi finito sotto inchiesta, Girolamo Sirchia, il ministro Elio Vito, che però paga un canone ben più alto, circa 1700 euro, non sappiamo bene però dove sia casa sua. Detto questo, ovviamente abbiamo voluto interpellare l'Elena Zarco, appunto, proprio per capire qual è la posizione rispetto a tutto questo, ma l'Elena Zarco ha anche in ballo una importante operazione di dismissione immobiliare. Chissà se ci finiscono anche queste case attribuite con dei canoni non proprio di mercato a numerosi VIP. Allora io saluto e ringrazio di essere con noi il presidente della Fondazione Elena Zarco, Brunetto Boco. Presidente, buonasera. Buonasera signora. Allora, vogliamo subito commentare insomma queste notizie che sono apparse in questi giorni sui giornali. Io so che lei ci tiene a dire una cosa, è tutto frutto insomma di una gestione Nasarco precedente alla mia, e però lei se la trova sul groppone, come la mettiamo? No, no signora, guardi, nessun caso di affittopoli per quanto ci riguarda. Io non so giudicare quello che sta avvenendo a Milano perché non ho approfondito. Ma per quanto ci riguarda, noi abbiamo 15.000 appartamenti a Roma e 50.000 persone che abitano nei palazzi della Fondazione Elena Zarco, e gli affitti sono determinati attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, così come previsto dalla legge sull'equo canone. E negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, questi affitti sono stati progressivamente aumentati, ovviamente tenendo presente che il 98%, 99% delle persone che abitano i nostri palazzi sono persone che, pensionati, lavoratori dipendenti, artigiani, e quindi questa è la nostra popolazione. Poi abbiamo alcuni palazzi, circa 7, 8, 9 palazzi che sono non di così considerati di pregio, ma palazzi in buone zone di Roma, perché tutti i nostri palazzi sono prevalentemente nella periferia di Roma, ai quali abbiamo cominciato mano a mano che scadono i contratti d'affitto ad affittare, a stimare degli affitti di mercato e quindi ad applicarli. Questa è la politica che noi abbiamo fatto ed è assolutamente trasparente, perché non abbiamo niente da nascondere e non ci rifugiamo nel passato. Noi, diciamo, la Fondazione ha ereditato una situazione quando era un ente pubblico di particolare disagio, perché eravamo obbligati ad affittare a categorie disagiate, no? Persone che perdevano il posto di lavoro, pensionati o cose di questo tipo. Chiaramente la Fondazione, avendo, come si può dire, 15.000 appartamenti a Roma, sicuramente in questi appartamenti ci possono essere varie categorie sociali, ma sono assolutamente un numero esiguo, ai quali non è stato fatto nessun prezzo di favore, compreso le persone che lei ha citato. Ecco, ma queste posizioni le verificherà? Che sono uguali per tutti e sono concordati con le organizzazioni sindacali ad equo canone. Ecco, detto, quindi ma queste non le esiste per noi un potere discrezionale di fare gli affitti. No, ma infatti nessuno ha voluto dire questo, io solamente riferito di quello che è apparso sui giornali. Volevo solo capire se... Certo, ha fatto bene. Volevo solo capire se lei a questo punto verificherà queste posizioni per capire appunto se sono delle ricostruzioni giornalistiche che non hanno senso, che non hanno fondamento. Sono notizie che appartengono, non so, le prime notizie sono state date 2 anni fa, no? E abbiamo precisato, abbiamo fatto, per esempio, il nostro piano di dismissione è stato approvato 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, e siamo operativi oggi, perché abbiamo fatto gare europee per selezionare chi c'è per la vendita, abbiamo fatto gare europee per selezionare le i nostri fondi dove collocano. Presidente, aspetti un attimo che noi la stiamo perdendo, non la sentiamo adesso in una buona qualità. Ecco, magari adesso meglio, forse la posizione in cui deve stare esattamente quella non si muove. Purtroppo sono in uno stabile che ha delle mura piuttosto... Ecco, allora, dunque, noi stiamo parlando di questa importante operazione di dismissione immobiliare, sì, che probabilmente riguarderà anche le case dei citati VIP, certo, che abbiamo detto, certo, e che riguarderà i 15.000 immobili che sono solo su Roma, sì, o anche su altri... 15.000 appartamenti, signora, non palazzi. Ah, ecco. Valore a libro e valore di mercato, quindi quanto... Allora, valore a libro sono circa 3 miliardi valore a libro risalenti al 1994. Valore al quale noi vendiamo... E qua niente, abbiamo proprio delle difficoltà con il presidente dell'Enasarco. Diciamo che le cose interessanti le abbiamo anche sentite, che quello che ci interessava capire era effettivamente tutta... Eccolo, presidente. Allora, le stavo dicendo, valore a libro circa 3 miliardi, valore di mercato circa 5, obiettivo nella vendita circa 4 miliardi e 2, compreso immobili commerciali. Tenga presente che i nostri prezzi che faremo agli inquilini sono stabiliti da un valutatore indipendente e soprattutto saranno certificati nelle agenzie del territorio. Quindi non ci sarà nessun potere discrezionale da parte della Fondazione Enasarco nello stabilire i prezzi degli appartamenti. Ovviamente è previsto per gli appartamenti affittati che sono occupati da inquilini, abbattimento del prezzo del mercato, così come succede normalmente per chi vende delle case che già sono occupate. La nostra scelta non è di cartolarizzare, ogni tanto la perdiamo purtroppo. La scelta non è stata quella di cartolarizzare e affidare a terzi la vendita, è stata quella di vendere direttamente agli inquilini. E infatti, tra l'altro, la procedura proprio per la vendita, se non ho capito male, anche riguardando quello che si chiama Progetto Mercurio, perché poi non l'abbiamo denominato, in modo tale che se qualcuno vede in giro anche qualche volantino pubblicitario, perché funziona anche in questa maniera la comunicazione di questa operazione, sa a che cosa si riferisce. Inquilini che saranno contattati direttamente senza intermediari della vostra fondazione, giusto? Sì, esatto. Quindi le abitazioni saranno date in prelazione agli inquilini al 30%, in meno del valore dell'appartamento libero? Sì, esatto. No, per capire. Per gli appartamenti che abbiamo lì saranno venduti a valori di mercato. Io la sto perdendo in continuazione. Mi interessa. Per esempio, un attimo che provo a spostarmi. Sì, guardi, aspetti, è veramente. Aspetti un attimo, mi sente adesso? Adesso meglio. Ecco, allora, aspetta, mi sono avvicinato ad una finestra. Che cosa ci farete con questo denaro, presidente? Perché molti ascoltatori ci stanno scrivendo, con denaro, un po' polemizzando. Ecco. In parte noi abbiamo riqualificato la nostra presenza immobiliare. Cioè nel senso che torneremo per un valore, diciamo, sull'ammontare globale del nostro patrimonio con almeno un 35-40%, ritorneremo sull'immobiliare, ma attraverso una politica di acquisizione mediante non più in gestione diretta, perché non è la nostra missione quello di gestire patrimonio. Allora, presidente, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io magari adesso mi riservo, vediamo se riusciamo ad organizzare in un'altra trasmissione un'intervista che sia qualitativamente migliore. Però il concetto fondamentale, appunto, che ci interessava sollevare col presidente Bocco, lo abbiamo espresso, e ci interessava appunto capire la Fondazione Enasarco, l'istituzione, quindi il vertice dell'organizzazione, quale fosse appunto la presa di posizione rispetto a quella che hanno già ribattezzato la Fittopoli Romana, ma il presidente ha detto non voglio neanche sentirne parlare perché non è così. Detto questo, adesso rapidamente io chiudo, poi lo saluterò personalmente appunto la trasmissione, ricordando anche quanto abbiamo ricordato prima della chiusura della prima parte di Focus Economia e quanto ha detto il giornale radio. I pubblici ministeri di Milano, Fusco e Ruta hanno chiesto la condanna a 3 anni di reclusione per l'ex governatore di Banca d'Italia Fazio, 1 anno e 3 mesi, all'ex amministratore delegato della Popolare di Lodi Gian Piero Fiorani, imputati al processo sul tentativo di scalata d'Anton Veneta da parte proprio della ex Popolare di Lodi. I pubblici ministeri hanno anche chiesto ai giudici del tribunale di condannare Fazio a 100.000 euro di multa. Per Francesco Frasca, l'ex capo della vigilanza di Banca d'Italia, hanno chiesto una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. Per quanto riguarda la richiesta di pena per Fiorani, questa è in continuazione con i 3 anni e i 3 mesi patteggiati nell'ambito della stessa vicenda, ma per reato di appropriazione indebita. Non abbiamo più tempo, credo volevamo fare un po' di cinema ricordandoci una cosa detta qualche tempo fa da Fiorani, quando in un intervento pubblico del 2004 sollevava l'importanza di un rapporto molto molto forte tra banca e cliente. Anche noi ce lo ricordiamo quando la sua gestione della Popolare di Lodi lo portava a spalmare 50 euro di spese sui conti dei defunti. Detto questo, anche per oggi Focus Economia termina qui. Domani ci sarà Simone Spezia con voi, da Deborah Rosciani. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.